5G. Ascolta e rispondi. Paolo invita le amiche? No, non le invita. Il medico visita le pazienti oggi? No, non le visita. Il professore corregge le composizioni? No, non le corregge. Il direttore saluta le colleghe? Sì, le saluta. Il maestro spiega le regole? Sì, le spiega. Il bambino mangia le caramelle? Sì, le mangia.